Civiltà. Gli italiani e le auto. Fiat. Nel 1899 Giovanni Agnelli, con un gruppo di nobili e finanzieri piemontesi, ha gettato le basi per la creazione di una fabbrica di automobili, chiamata precisamente Fabbrica Italiana Automobili Torino, o come meglio nota, Fiat. La prima macchina, che assomiglia a una carrozza senza cavalli, è la 3,5 HP, 8 esemplari con una velocità in pianura di 35-40 km orari. In poco tempo sono nate altre fabbriche a Milano, Firenze, Genova, Napoli e nella stessa Torino.